Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre, un saluto a Gianluca Codognato che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Torniamo a parlare di pensioni, perché c'era stato il blocco dell'adeguamento delle pensioni, no? Magari adesso ci spiegherai meglio questa cosa, e c'è una cosa che i pensionati dovrebbero fare. Sì Francesco, tra l'altro c'è una cosa che devono fare che molti stanno già facendo in questi giorni perché il tempo stringe. Facciamo una brevissimo riassunto della situazione che molti, quasi tutti i diretti interessati conoscono molto bene. Diciamo che a suo tempo, esattamente nel 2011, il governo Monti, con il famoso decreto Salva Italia, ha fatto anche una mossa che insomma ai pensionati, soprattutto anche ai sindacati, non è piaciuta, e alle associazioni come la nostra, non è piaciuta assolutamente, e cioè ha deciso che per l'anno 2012-2013, per le pensioni superiori a tre volte il minimo, quindi attorno ai 1.440 euro lordi mensili, non ci fosse più l'adeguamento all'inflazione. Praticamente la pensione, che si è sempre adeguata all'inflazione per tutelare quindi il potere d'acquisto, per quei due anni praticamente non ha ricevuto il necessario adeguamento, la necessaria rivalutazione. È successo, e questa sicuramente non è stata una buona notizia per il governo Renzi, che questa norma poi negli anni successivi sia stata bocciata dalla Corte Costituzionale. E Francesco, ci ricordiamo tutti i salti mortali che ha dovuto fare il governo per recuperare un po' di soldi e per capire come sistemare questa situazione dopo la sentenza. E c'è stata un po' una soluzione, diciamo, all'italiana, cioè sì, va bene, la sentenza dice questo, restituiremo una parte di soldi che i pensionati avanzano, ma solo a chi ha una pensione compresa tra i 1.400 e i 3.000 euro, che per carità sono anche pensioni dignitose, però l'adeguamento all'inflazione è sempre esistito e voglio dire non si capisce perché bisognasse andare a raccogliere soldi proprio dal pensionato. In ogni caso, questa soluzione, che io appunto ripeto definisco all'italiana, decisa dal ministro Poletti e quindi dal governo Renzi, ha accontentato relativamente i pensionati, visto che stiamo parlando di rimborsi che vanno tra il 10 e il 40% di quanto invece dovuto. Cosa succede adesso, Francesco? Ed è per quello insomma che arriviamo all'attualità. Ora ci sono in corso in Veneto, in Italia, più di qualche ricorso che potremmo definire pilota. Cosa significa? Significa che qualche pensionato, solitamente patrocinato anche da qualche sindacato, si è trovato un avvocato e ha fatto un ricorso contro in questo caso contro la decisione del governo Renzi, sì. Cioè contro questa restituzione parziale di quanto avanzato. Questo ricorso potrebbe anche andare a buon fine, se andasse a buon fine potrebbe esserci un nuovo pronunciamento della Corte Costituzionale che dice eh no, dovete restituire tutti i soldi che i pensionati avanzano e avanzavano. Però se dovesse aprirsi questa strada ne rimarrebbero tagliati fuori, ed è qua che arriviamo all'attualità, ne rimarrebbero tagliati fuori tutti quelli che entro quest'anno non avessero bloccato i termini di prescrizione. I termini di prescrizione decadono appunto il 31 dicembre 2016, quindi entro quella data tutti i pensionati che avanzano ancora soldi dall'INPS a causa appunto di quella legge che veramente è stata molto molto contestata, ecco, tutti i pensionati interessati a un possibile esito dei ricorsi devono appunto bloccare i termini di prescrizione, se no, se non lo fanno, si ritroveranno che non potranno più avere diritto a nessuna somma aggiuntiva, neanche nel momento in cui ci fosse un intervento definitivo della Corte Costituzionale anche in merito a questo argomento. Certo, passato il tempo, insomma, non si può più fare richiesta. Quindi diamo l'input di contattare proprio, per esempio, il vostro ufficio dell'Adico. Ricordo anche il sito www.associazionedifesaconsumatori.it per trovare i contatti telefonici e quello che serve. Se posso, ecco, se posso aggiungere proprio brevissimamente, proprio come dato informativo, la prescrizione viene, il blocco della prescrizione deve essere richiesto tramite appunto l'invio di una raccomandata ad hoc, apposita, c'è anche un, sono dei vari facsimili anche in vari siti, noi chiaramente ne abbiamo uno creato appositamente dal nostro ufficio legale, e si manda appunto questa raccomandata con ricevuta di ritorno all'INPS in cui si chiede l'interruzione della prescrizione. Mi sembra una cosa che può essere utile e che andava comunque segnalata. Grazie all'Adico, grazie a Gianluca Codognato, che ritroviamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.